Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Di Irene Zerbini. Ben ritrovati, 8 e 14 minuti, oggi è il 19 agosto e si nota una certa vivacità anche nelle città. Anche dietro il vetro è tornato Paolo Corleoni, è tornato Alessandro Longoni in regia. Li avete visti gli aeroplanini sulle spiagge, quelli con gli striscioni? No, no, noi vi mandiamo in giro, in vacanza e voi non avvistate. Attenzione perché si è raggiunta una nuova era della campagna elettorale. È un po' un'era che ricorda tempi antichi, è un po' una tecnica pane e salame, se vogliamo definirla così. Da una parte lo striscione, dall'altra l'algoritmo matematico delle campagne di Barack Obama. Metteremo a confronto questi metodi un po' genuini e un po' ipertecnologici alle 9 insieme, quando parleremo di questi fenomeni e soprattutto di cosa funziona oggi, perché abbiamo visto Angela Merkel andare a vestire i panni di un insegnante di storia in una scuola. Abbiamo visto il primo ministro norvegese fingersi tassista per un giorno per raccogliere quelli che sono i veri umori del paese. E noi cosa vorremmo vedere fare ai nostri politici? Cosa ci convincerebbe in vista di una campagna elettorale? Tutti temi che dibatteremo dopo, perché ora vogliamo buttarci in Europa. Un'Europa nuova, diversa. Un'Europa 28. Dal 1 luglio 2013, infatti, si è aggiunto un nuovo Stato. Dobardan Silvio Tomasevic. Dobardan. Dobardan, dunque, al nostro corrispondente straniero, vive in Italia, è croato e naturalmente siamo ben contenti di poterti annunciare con questo inno che avevate lì da un po', poi l'avete fatto debuttare quando? No, l'inno esisteva da tanti anni. Si è suonato pure durante la Jugoslavia. Dunque c'erano l'inno nazionale jugoslavo e poi alcune repubbliche avevano il loro inno della nazione. Dunque l'inno si suonava anche durante la Jugoslavia di Tito. E poi avete abolito l'inno con l'indipendenza, quello jugoslavo intendo? Quello jugoslavo poi è finito quando la Croazia ha avuto la sua indipendenza. Quindi nel 1992 ora si utilizza questo inno, nel 2013 entrate nell'Europa Unita, avete tutta una serie di date storiche a stretto giro di posta, per cui si può dire che molti dei croati oggi possano ricordare quasi due o tre fasi della loro storia. Quanti sono innanzitutto i cittadini croati, Silvio? 4,5 milioni. Quando comincerete a utilizzare l'euro? Ma questo dipende anche dall'economia dello Stato croato, la salute dell'economia dello Stato e le finanze prima di tutto. Dunque nei parametri ci siamo, ma come ci insegna la storia, non prima di 2 anni dall'entrata nell'Unione Europea si può avvicinare all'euro. Quindi avete 2 anni per pensare cosa mettere nel retro delle monete, nel conio certo. Croato. Cosa, già ne discutete? No, ecco, questo non discutiamo ancora, ma sicuramente ci sarà la città di Dubrovnik o la cattedrale di Zagabria, dunque. Avete anche delle bellissime cascate, non so se possono entrare in una moneta, però potrebbe essere un'idea, no? Sì, anche quella, sì, perché la natura non è nella moneta fino adesso rappresentata, anche questa è una bella idea. Cos'è? Le cascate di Plitvice. Per iniziare un nuovo corso e non solo monetario. Tu sei il corrispondente in Italia per la TV croata, come si chiama la TV nazionale croata? Dunque HRT. HRT, diciamo. E per il quotidiano, in questo caso? È Večernji list di Zagabria. È un po' il corrispondente, possiamo assimilarlo così per fare dei paragoni un po' banalotti, però al Corriere della Sera, o è più vicino a Repubblica come Sia come formato stile, cartaceo che come stile editoriale. Sì, come stile più vicino alla Repubblica, ma la traduzione di Večernji list è Corriere della Sera. Letteralmente in croato, Corriere della Sera. Sì. E quali sono i pezzi di cui ti sei occupato ultimamente? So che chiami la redazione ogni mattina e cosa chiedi? Chiedo quanti chili di Berlusconi e quanti chili di Papa vogliono per la giornata. Cioè li vendi a chili Berlusconi e il Papa tu sì, dall'Italia? Sì, si vendono a chili. Beh, hai avuto da fare insomma negli ultimi anni parecchio. Certo. Ma a parte Berlusconi e il Papa, che naturalmente sono due filoni inesauribili che alimentano l'attività dei corrispondenti stranieri in Italia, e quali altre tematiche avete preso in esame? So che c'è stato un grandissimo interesse da parte dei croati verso i tuoi articoli sull'ingresso in Italia delle leggi antifumo. Perché? Antifumo, sì, perché prima di tutto non soltanto i croati ma anche gli altri in Europa hanno detto la legge non durerà molto perché gli italiani sono indisciplinati, dunque si fumerà dappertutto. E questo è arrivato puntuale, cioè non si fuma nei bar, nei ristoranti, e non soltanto i croati, penso anche altre nazioni europee sono rimaste abbastanza, diciamo, scioccate dal fatto che la legge funzioni. Sono rimaste sorprese dalla disciplina degli italiani quando è entrata in vigore, perché loro già avevano, voi croati avevate già profetizzato violazioni continue, una legge di facciata, il paese certo, diviso sul fatto che gli italiani avrebbero fumato o meno. Gli italiani non sono disciplinati, soltanto con questa legge, cioè, ancora oggi si passa con il rosso, si parcheggia in doppia, terza fila, in molte cose non sono gli italiani disciplinati, in questa legge sì, ecco, questa era una cosa scioccante, diciamo. E quali altri aspetti del vivere quotidiano in Italia ha colpito ultimo, i tuoi connazionali? Sì. Sì, ultimo articolo che ha suscitato stupore era questo della decisione del governo di vendere 3 aerei della flotta di 10 aerei. Dunque un governo che abbia 10 aerei a disposizione è come una compagnia aerea di un piccolo stato, dunque una compagnia aerea, non so, la Croazia Airlines, non so se abbia 10 aerei. Ah, quindi dunque, su queste decisioni da spending review del Presidente del Consiglio italiano, la sorpresa non è stata la decisione di tagliare, ma lo scoprire contestualmente che l'Italia aveva una flotta così ricca, non l'Italia, il governo italiano. Certo. Ha una flotta da Stato. 10 cioè. Aerei o 60 macchine, è una cosa, neanche un'azienda non ha tanti aerei e tante macchine. Neanche una piccola nazione, tu dici, può essere una piccola nazione, sicuramente. Dotata di un parco macchine, un parco trasporti così nutrito. Queste sono le cose che accadono spesso con voi corrispondenti stranieri. Cioè, mettete l'accento su aspetti che invece il giornalista italiano, il media italiano, dà per... come dire, scontati, dà per acquisiti, e notate dei paradossi e fate notare delle situazioni piuttosto straordinarie che invece nel paese che raccontate vengono accettate come quasi una legge naturale. Senti, e voi avete un altro punto in comune con l'Italia, cioè avete una grandissima percentuale della popolazione croata fuori dai confini. 4,5 milioni, mi hai detto, sono i croati, e poi avete 2 milioni di abitanti fuori. A quando risale la vostra emigrazione? La prima ondata è stata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cioè quei croati che non volevano stare sotto la dittatura del comunismo. In quell'epoca sono usciti moltissimi, purtroppo sono stati cacciati anche gli italiani dalle coste, dall'Istria. sia, loro sono stati cacciati, i croati sono fuggiti, ecco, questa è la differenza. La seconda ondata è stata negli anni 60, quando si andava a lavorare in Germania. In quell'epoca addirittura 700.000 croati sono usciti dalla Jugoslavia per andare a fare i Gastarbeiter in Germania. Cioè, cosa significa? I lavoratori in Germania, Gastarbeiter, dunque i lavoratori come ospiti lavoratori, Gastarbeiter. Dunque si andava, in quell'epoca anche molti italiani sono usciti ad andare a lavorare in Germania, erano gli anni 60, e era la prima volta che lo Stato jugoslavo, dunque dal 64 in poi, si è potuto avere il passaporto e molti hanno approfittato per una fuga, un'emigrazione di natura economica. Anche oggi si va in Germania, è una delle destinazioni preferite degli italiani in fuga. La differenza è nel profilo dell'italiano che esce oggi, un italiano altamente qualificato, dotato di laurea e addirittura in alcuni casi di master. Sono moltissimi, tra l'altro, quelli che ci hanno scritto dopo che ce ne siamo occupati venerdì, proprio qui in radio, ha suscitato una marea di reazioni una lettera di un imprenditore veneto che dalle colonne del Corriere della Sera diceva: attenzione, perché non è vero che non ci sia lavoro, io non riesco ad assumere italiani, gli italiani non hanno fame, non sono disponibili per i turni nel fine settimana, per i turni notturni, e io assumo solo stranieri, anzi gli italiani hanno una gran voglia di andarsene in Germania, faceva capire questo imprenditore, non ci vogliono proprio stare in Italia. Ed è emerso dalle reazioni, dalle lettere, dalle esperienze degli ascoltatori che non è esattamente così, non di voglia si tratta ma di necessità, ma di questo discuteremo tra pochissimo. Invece Silvio, grazie per averci aiutato a capire meglio la realtà e del tuo paese e soprattutto come ci vedono, perché c'è un grandissimo contatto, è impressionante, tu dicevi Berlusconi e il Papa, io li vendo a chili. La realtà sottesa a questa affermazione è la grande attenzione del pubblico croato a ciò che avviene in Italia. L'italiano quanto è diffuso in Croazia come lingua? Come lingua moltissimo, anche sono molti gli italiani, la minoranza italiana che parlano l'italiano. Poi in questi paesi dove ci sono italiani c'è un miscuglio di lingua croato-italiana. Vi racconto una barzelletta: nel vicino Fiume c'era. Brevissima, siamo in conclusione. Dunque, una signora diceva a un croato di entroterra che è venuto lì a studiare: qui hai sciugamano, qui hai la finestra, qui hai. E questo la guardava con gli occhi aperti e lei dice: ma il signorino non parla il croato? Dunque le parole italiane in uso in Croazia ci sono moltissime. Grazie mille, grazie Silvio Tomasevic. Un'intervista anche questa con il nostro corrispondente che sta suscitando qualche reazione via SMS, perché spesso è così, c'è l'allergia a chi ci guarda, a chi ci giudica, eppure questo è il compito della stampa e anche della stampa che vive fuori confine proprio per raccontare un paese. Spesso le reazioni sono così, di fastidio. Ci fermiamo per ora, ritorneremo tra pochissimo per parlare di una realtà tutta italiana, ne siamo proprio sicuri? O anche all'estero ormai la crisi spinge i laureati a puntare altrove? Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Alla domanda, se ti venisse proposto un posto di lavoro all'estero, partiresti volentieri? Un ampio campione di studenti francesi ha risposto sì, il 75% del totale. Apriti cielo. Perché in Francia non si reagisce come si reagisce in Italia, dando la pacca sulla spalla a chi ha voglia d'avventura, quasi fosse così. È un eccesso da giovinezza, ma nemmeno un eccesso, una sana e salubre voglia di farsi un'esperienza all'estero, un po' come l'ha raccontata Giorgio Napolitano. L'avete visto ieri al meeting di Rimini, e lui ha detto: io non tratterrei mai un giovane che abbia voglia di farsi le ossa, di migliorare la propria competenza, la propria posizione andando altrove. Attenzione, ma ormai le fughe dal proprio paese non sono dettate solo da un'inclinazione personale, sono tantissimi i fenomeni naturalmente che fanno da sottofondo a questa nuova emigrazione e a questa voglia di andarsene, volare via o, perché no, anche in treno. Buongiorno Irene, scrive una delle tante email che abbiamo ricevuto dopo la puntata di venerdì. Ci chiedevamo: ma è vero che gli italiani non hanno voglia di lavorare? È vero che non hanno fame? E così, prendendo spunto da questa intervista denuncia di un imprenditore trevigiano, ci siamo chiesti quanto ci fosse di vero e quanto invece fosse un po' esagerato. Lui intanto è stato sommerso da telefonate, proposte, curriculum, sono tutti italiani, dicono assumici, vediamo se non abbiamo voglia di lavorare. Ormai sono anni noi che facciamo i turni, che siamo disponibili a lavorare di notte, a lavorare il sabato e la domenica. La realtà è che di lavoro in Italia non ce n'è e non ce n'è abbastanza, per quello ce ne andiamo. Voi come la pensate? 8:33 minuti su Radio 24, ne parleremo con i nostri ospiti per fare una fotografia di cosa ci aspetta all'estero. E diteci le vostre esperienze, opinioni. 800 24 00 24 è il numero di telefono, oppure 349 238 6666, questo è l'SMS. Dicevamo: buongiorno Irene, ho 35 anni e da 4 mesi mi sono trasferito a Rio de Janeiro, cominciava l'email, dove trascorrerò almeno 2 anni come tecnico per la propulsione navale, fondamentalmente varo navi delle più svariate tipologie, e dice puntini puntini, senza laurea. Io in questo caso non appartengo a quelli a cui mancava un lavoro in Italia, ma avevo voglia di cambiare aria. E in merito all'articolo sul Corriere, dove un imprenditore dichiara che gli italiani non hanno voglia di lavorare perché non hanno fame, io dico che manca per il momento un reale bisogno di lavorare. Si vedano seconde case che fungono da ammortizzatore sociale, l'italiano è super patrimonializzato, università italiane che hanno sfornato prevalentemente titoli di studio e non persone competenti, e così via. Continua l'ascoltatore, che ringraziamo naturalmente, a raccontarci come la vede. E in Francia come va? Buongiorno a Lorenzo Martinelli. Leonardo Martinelli. Leonardo Martinelli, scusami Leonardo, ti ho comunque attribuito un bel nome. Leonardo Martinelli è il caporedattore di First Online e collabora con Il Fatto. Dunque, ci ha colpito un tuo articolo sul Fatto in cui parlavi di tasso di disoccupazione tra chi ha meno di 25 anni in Francia, allarmante, e hai aperto l'articolo con una situazione in cui François Hollande è stato piuttosto imbarazzato. Perché? Cos'è successo? Beh, sì, è successo nel mese di luglio, c'è stata un'intervista in diretta al presidente francese su M6, che è una delle maggiori televisioni private francesi, soprattutto è quella più seguita dai giovani, e mentre c'era questa intervista è stato passato un video, un appello di una ragazza che si chiama Catherine, che è laureata a Sciences Po, che è la grande scuola di scienze politiche francese, una scuola di livello universitario che in genere, diciamo, i laureati di Sciences Po non hanno nessuna difficoltà a trovare un posto di lavoro in Francia. Questo secondo, invece, cioè tradizionalmente, insomma, tradizionalmente, in anni pre-crisi, ora una, diciamo. Certo, ora c'è una crisi in Francia e Catherine quindi stava facendo le valigie per andare in Australia. E quindi si appellava direttamente al presidente spiegandone un po' la sua situazione. Devo dire, fra l'altro, sonda era molto in difficoltà, era in diretta, e da allora si è scatenato un dibattito, anche una sorta di una sul quotidiano Le Monde con una serie di articoli per discutere un po' all'italiana, se si vuole, è veramente un problema questa fuga dei cervelli, esiste, quali sono le ragioni, eccetera, un dibattito certe volte anche molto, molto difficile, sofferto. Qual è il tasso di disoccupazione giovanile in Francia? Lo possiamo assimilare ai livelli italiani? No, è inferiore, perché diciamo che il tasso di disoccupazione al di sotto dei 20, tra i 18 e i 25 anni si avvicina al 28%, quindi molto alto, molto più alto della media europea, però lontano dal 40 e più per cento italiano. Il problema forse diciamo della Francia e anche quello dell'Italia è che praticamente da 30 anni questo tasso non è mai sceso sotto il 25%. Ora, a lungo in Francia si è pensato che questo tasso di disoccupazione fosse alimentato solo dai figli degli immigrati che vivono nelle periferie, da persone che non avevano una formazione. Si dà una grande importanza in Francia a livello formativo. Invece negli ultimi tempi ci si rende conto che anche i laureati non riescono più a trovare, o almeno non lo trovano al livello delle proprie competenze. Tra l'altro lo Stato francese calcola quanto costa la scolarità completa di ogni suo cittadino, cioè quando si parla di fuga di cervelli all'estero subito si fanno due conti e si percepisce qual è il danno in termini economici, perché esportare un cittadino completo e scolarizzato in genere comporta il fatto che tutte le scuole siano state finanziate naturalmente dal paese d'origine, e poi questa persona formata vada a competere e aumentare la competitività di un altro paese. In Francia questo tipo di discorsi e di conti si fanno, Leonardo? Si fanno tantissimo, anche perché diciamo che la scuola pubblica, l'università pubblica ha ancora un grande valore come in Italia. In Francia diciamo portare fino alla laurea un giovane costa 168.300 euro, questo è il calcolo ultimo aggiornato. Credo che io non sono d'accordo con quanto diceva quella persona che ti ha scritto, credo, una mail dal Brasile, che il nostro paese sforna dei laureati che non hanno un buon livello di formazione. Io sono stato vissuto fuori dall'Italia per tanti anni, sono ritornato da 2 anni in Italia, mi sono ritrovato anche a lavorare con giovani laureati italiani e trovo che il livello formativo sia ancora molto alto in Italia, e questo avviene anche mediamente in Francia. Beh, non è un'opinione solo tua, non è un'opinione solo tua. Ma è anche perché io ho vissuto in Francia, ho conosciuto tanti giovani laureati che erano lì perché non trovavano lavoro in Italia, ma anche perché erano bravi, perché se no non l'avrebbero. Esatto, Leonardo, abbiamo dei problemi sulla tua linea, quindi cerchiamo di ripristinarla magari con un altro numero. Intanto ci spostiamo in Germania, dove naturalmente salutiamo Massimo D'Archini. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Massimo D'Archini è il consigliere dell'Ufficio Immigrazione e Affari Sociali dell'Ambasciata d'Italia in Germania. Quindi ci siamo collegati con lei, Massimo, proprio per andare al di là delle sensazioni e avere qualche cifra ufficiale. C'è questa sensazione di grande esodo degli italiani con qualifiche, con lauree, con master verso la Germania. Facciamo un confronto di numeri inizialmente. Nel 2012 rispetto al 2011, secondo l'ambasciata italiana in Germania, sono arrivati nel paese un numero maggiore di italiani? Sì, allora buongiorno. Sì, si è sicuramente registrato un incremento negli italiani provenienti dal nostro paese verso il territorio tedesco. La Germania è sicuramente uno dei paesi cui in questo momento si guarda con più attenzione, perché insieme a pochi altri paesi, direi in Europa, in Paesi Bassi, l'Austria, la Danimarca, ha un tasso di disoccupazione, soprattutto un tasso di disoccupazione giovanile estremamente basso. In realtà i numeri, appunto dicevo, registrano degli incrementi che variano molto da zona a zona. Ci sono città che attraggono molto, come Berlino e Monaco, dove abbiamo registrato un incremento del 6% circa nel caso di Berlino, nel caso di Monaco 2,5%. Ci sono altre zone in cui gli italiani vanno meno. Poi naturalmente c'è la capacità da parte della Germania di effettivamente impiegare poi le persone che provengono dall'Italia. E questo varia da lander a lander, immagino. Ora ci segnalano i nostri ascoltatori al 349-238-6666 la questione dei salari, perché senza dubbio gli stipendi italiani sono troppo bassi. Questo ci scrive qualcuno e è confermato dal confronto con gli stranieri, con voi in particolare. Pensate che per esempio un giovane medico che comincia la sua carriera in Germania la comincia con 45.000 euro, questo è lo stipendio lordo d'ingresso in media, mentre un medico specializzato guadagna in media 84.000 euro lordi anni, un capo clinica 116.000 euro, un primario 266. Ma al di là dei medici, anche i chimici, stipendio d'ingresso 42-48.000 euro lordi annui, questo per il neolaureato. Gli stipendi dei direttori di laboratorio oscillano tra i 123.000 e i 164.000 euro. Se andiamo a prendere in esame gli stipendi degli avvocati o dei laureati in legge in generale, qui arriviamo a cifre vertiginose. Si entra nel mercato tra i 70 e i 100.000 euro lordi annui e secondo le stime dell'equivalente dell'Istituto di Statistica tedesco si arriva a compensi molto elevati che sfiorano la soglia dei 700.000 euro lordi annui in certi uffici legali molto prestigiosi. Poi parleremo anche dei politici. Comunque la questione salariale naturalmente è una delle leve che spinge gli italiani a spostarsi. Da Archini, lei ci diceva della differenza tra lander e lander, naturalmente dove si concentrano i maggiori arrivi non viene lasciato semplicemente alla voglia e alla conoscenza dell'italiano che arriva, ma adesso la Germania si sta organizzando e si organizza prendendo contatti anche con voi per far sì che si indirizzino per esempio gli ingegneri. Ci sono moltissimi ingegneri, si calcola che in Germania ne manchino 70.000, quindi moltissimi ingegneri che si muovono dall'Italia per arrivare lì. E dove vengono impiegati soprattutto? Le categorie che lei ha citato, ingegneri, avvocati, medici, aggiungerei anche il settore dell'information and technology, sono sicuramente quelle che venendo dall'Italia hanno più possibilità di essere impiegate in Germania, cioè la Germania ha bisogno di queste categorie, lo ha detto ancora ieri il ministro presidente del Land Baviera, che è sicuramente il Land più ricco della Germania, cioè ha detto che stranieri e quindi nello specifico anche gli italiani che facessero parte di queste categorie professionali o comunque avessero questo tipo di formazione professionale sono benvenuti e probabilmente fanno anche presto a trovare un impiego. Attenzione, perché mi permetto di dire dal nostro osservatorio che non è tutto così semplice. Cioè, e preciseremo le condizioni reali e quelle che possono essere alcune difficoltà quando si arriva in Germania. Tra pochissimo salutiamo Gabriele. Pronto? Buongiorno Gabriele. Sì, buongiorno. Rimanga con noi perché andremo a sentire anche la sua esperienza. Prima però il traffico e la situazione delle strade. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. 8:46, abbiamo ancora 15 minuti per cercare di capire insieme cosa succede quando poi il cosiddetto cervello in fuga si affaccia oltre confine e se ne va in Germania, ma non solo, se ne va negli Stati Uniti, se ne va in Canada, in Belgio e, come avete sentito, anche in Brasile e in Argentina ultimamente. Gabriele, buongiorno. Sì, buongiorno. Ecco, io volevo raccontarvi brevemente la mia esperienza di mi definisco un cervello che dopo la laurea in fisica a Pisa sono andato a fare un dottorato in Inghilterra e dove ho lavorato nel campo della ricerca per altri 3 anni finito il dottorato. Già il mondo dell'università inglese era non meno paragonabile a quello dell'università italiana all'epoca in termini di soprattutto strutture e capacità di accoglienza degli studenti. Per non parlare poi dell'importanza che gli studenti avevano, anche gli studenti di dottorato, nel mondo della ricerca all'interno dell'università stessa. Io ero protagonista assoluto del mio progetto, viaggiavo già per conferenze quando la situazione in Italia di connazionali che conoscevo bene era ben diversa. E quanti anni aveva Gabriele lei quando? All'epoca avevo 20, mi sono laureato in corso, e sì, quindi 24 anni, sono andato a fare il dottorato e a 27 l'ho concluso, quindi tutto da, diciamo, by the book, come si dice. E poi ho lavorato per 3 anni per una multinazionale americana nell'ambito della ricerca fotonica. E diciamo dove non veniva tenuto in un angolo come il piccolo ragazzo che deve imparare da quello coi capelli bianchi, perché anche questo aspetto che lei ha sottolineato è molto importante, non è solo il salario, l'inquadramento, la valorizzazione, quanto vengono ascoltati questi giovani laureati all'estero, che importanza hanno, non devono sempre attendere che il barone di turno o la persona che ha già qualche decina d'anno d'esperienza in azienda si metta da parte o vada in pensione. No, assolutamente. Io ero, come ne ho assunto, ero responsabile di 3 progetti in ambiti diversi e li gestivo addirittura con collaborazioni con università e in totale simbiosi col mio capo, veramente come ne ho assunto. Quindi era assolutamente un mondo che, ripeto, che è difficile ricreare in Italia. E assolutamente. Grazie, assolutamente. Grazie Gabriele, grazie per questa esperienza. 800 24 00 24, sono tantissime le vostre segnalazioni. Lì il problema non è tanto chi va, non è tanto la fuga di cervelli, non sono quelle migliaia, decine di migliaia di laureati che, come abbiamo sentito, lasciano il proprio paese anche in altri paesi europei. Il problema è che in Italia poi, nel saldo tra chi va e chi arriva, siamo pesantemente in perdita, perché non abbiamo realtà che attraggano, inclusa l'università, che attraggano ricercatori stranieri. Noi torniamo in Germania e torniamo all'ambasciata, perché ci stava spiegando Massimo D'Archini come non sia sempre rose e fiori. Cioè, avete riscontrato, D'Archini, tra i connazionali che arrivano in Germania a volte delle aspettative eccessive? Sì, direi di sì. Ci sono i connazionali che vengono preparati, che conoscono la lingua, conoscono il paese e sanno quali contatti avere poi una volta che arrivano qui. Ci sono quelli che invece, forse presi un po' dalla, uso un termine forte, un po' dalla disperazione o comunque non vedendo soluzioni a breve in Italia, vengono magari non parlando il tedesco, addirittura in vari casi purtroppo riscontriamo anche non parlando l'inglese. Allora, in questi casi naturalmente ci sono poi dei problemi non soltanto nell'inserimento nel mercato del lavoro, e questo è abbastanza prevedibile, ma certe volte anche nell'inserimento nel paese. C'è una divisione tra sessi, D'Archini? Cioè sono 50% donne e 50% uomini? Direi prevalentemente che non vi sia una divisione netta, forse sono più gli uomini, ma non dipende anche dai settori di cui parliamo, quindi non parlerei in questo senso di differenze particolari dal punto di vista numerico. E la Germania ha preso coscienza della ricchezza sociale, demografica, economica che deriva dalla migrazione e ha puntato sul processo anche di incentivi per convincere i giovani europei a trasferirsi in Germania. Cioè, quali sono questi incentivi? Che progetti esistono in Germania per chi arriva da fuori? La Germania punta molto a promuovere il proprio sistema di formazione duale, che è in realtà quello cui stiamo guardando anche noi, cioè l'Italia guarda alla formazione duale, cioè allo studiare e contemporaneamente al fare apprendistato in maniera molto interessata, perché è questo naturalmente il metodo per favorire un legame diretto tra mondo della formazione, dell'università o della scuola e mondo del lavoro. In questo senso ci sono una serie di contatti in essere. A Napoli lo scorso novembre è stato firmato un accordo a 4 mani tra i 2 ministri del lavoro e i 2 ministri dell'istruzione, e lo scopo è proprio questo, cioè di promuovere il sistema di formazione duale, in questo senso non soltanto per gli italiani che venissero in Germania, ma anche, e mi riferisco a quanto diceva lei prima su quanto possiamo offrire noi in Italia, anche ad esperienze che studenti tedeschi possano fare in Italia. E chissà che comincerà appunto il processo a rovescio, cioè l'importazione di professionisti tedeschi. È auspicabile. E questo l'elemento che colmerebbe una grossa lacuna. Ma prima di uscire, prima di andarsene all'estero, un po' questi professionisti provano in Italia, ma soprattutto cercano nel mondo del lavoro quali siano le opportunità migliori e passano spesso dalla direzione commerciale di agenzie per il lavoro. Oggi ce n'è una leader insieme a noi, sto parlando di G Group, e saluto e ringrazio Stefano Butti. Buongiorno. Sì, buongiorno Irene, buongiorno a tutti. Stefano Butti, tutto quello di cui noi stiamo discutendo oggi non le apparirà certo nuovo, perché lei fa le selezioni di questi candidati, li smista per così dire. Noi esportiamo e importiamo come Italia, ci sono figure professionali che ci mancano, diceva questo imprenditore veneto, dobbiamo assumere stranieri. Ma sì, è brutto a dirsi, nel senso che ho visto che quell'intervista all'imprenditore veneto ha generato tutta una serie di reazioni. D'altro canto io posso citare il nostro caso, noi facciamo appunto ricerca e selezione in tutta Italia e nel mondo di professionisti di livelli diversi, e riscontriamo che ci sono alcune professioni molto particolari che in Italia non si riescono o non si riescono più a trovare. Per esempio? Ma per esempio ci sono situazioni molto curiose anche, io cito spesso il tema del salatore di prosciutti. Di prosciutti, ho capito bene? Esatto, sì, noi abbiamo un prodotto che può sembrarci un prodotto banale, che è quello del prosciutto, che fa parte della qualità dell'Italia, la qualità che viene riconosciuta nel mondo in termini di produzione, e questa qualità è data anche da chi decide che tipo di sale e quanto sale mettere sui prosciutti, soprattutto sul crudo, ovviamente sui prosciutti di più alta gamma. Questa è una professione che si è sempre tramandata di padre in figlio per generazioni, e oggi trovare un salatore di prosciutti italiano è una mission impossible. E da dove li si importa? Da dove li si importa questi salatori di prosciutto? Noi abbiamo implementato tutta una serie di progetti per cui andiamo a prenderli nell'Europa dell'Est. Quindi le aziende leader di questo settore, soprattutto nei distretti che cercano questi professionisti, non li trovano, spesso sono costretti a formarsi in casa partendo quasi da zero, noi andiamo a prenderli in Europa dell'Est. E quali sono le altre figure professionali che invece esportiamo, Butti? Sono richiesti i professionisti italiani all'estero? Le risulta questo? Allora, sono richiesti, anche perché comunque gli italiani all'estero spesso hanno anche successo, quindi esportiamo qualità anche in termini di professioni. Ci sono fondamentalmente due percorsi di export in termini di cervelli. Uno è quello che abbiamo affrontato prima con l'ascoltatore che parte dall'accademia, e l'altro è quello che invece esce dall'accademia per entrare nel mondo d'azienda. Noi intercettiamo soprattutto questo secondo flusso di export di cervelli, e sono soprattutto tecnici, informatici, ingegneri, laureati in economia e commercio che cercano un percorso in aziende estere. Che li valorizzi o è semplicemente il salario maggiore a spingerli? Ma allora, il salario maggiore è sicuramente una leva importante, però dobbiamo secondo me ampliare anche lo sguardo con il quale osserviamo questi fenomeni, nel senso che dobbiamo riflettere su quella che è la scala dell'agire, la scala del nostro agire. Cioè, qualche secolo fa, se un ragazzo di Varese andava a lavorare a Milano, forse a Varese si parlava di fuga di cervelli da Varese. Oggi questo ovviamente non accade più, è normale che un ragazzo di Varese vada a lavorare a Milano. Mentre se un ragazzo di Varese va a lavorare a Monaco, si parla di fuga di cervelli. Perché? Stefano, rimanga con noi, perché arriveremo a concludere su questo quesito. Gli italiani non hanno voglia di lavorare. Cosa sta succedendo? Perché tante polemiche in seguito a questa frase pronunciata da un imprenditore veneto, e sentiremo anche le vostre voci. Prima però andiamo al GR, diamo la linea alle notizie per alcuni aggiornamenti, ritorneremo insieme a Antonella che ci chiama da Latina, a Matteo da Bergamo, e naturalmente alle vostre opinioni all'800 24 00 24. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Voce della vostra coscienza. Ricordate, nel segreto della cabina elettorale Dio vi vede. E Stalin no. Stalin chi? Sembra proprio un'altra epoca, un'altra era, sembrano passati secoli, era il 1948. E un regalo, uno spunto di vista della regia che ci ha mandato questa campagna elettorale, quella di allora, per anticipare il tema che da qui a breve andremo a affrontare. Aeroplanini da una parte, algoritmi matematici dall'altra, volantini sulle spiagge. Tutto quello a cui avete assistito in questo caldo weekend ferragostano. Tra poco sentiremo le vostre opinioni e quello che avete visto, soprattutto se avete avvistato questo telefonino all'800 24 00 24. Continuiamo con i nostri ascoltatori perché ci stavamo chiedendo non solo cosa spinge gli italiani ad andare all'estero, sembra un'inclinazione personale, sembra la voglia semplicemente di fuga, eppure secondo una ricerca del Sole 24 Ore e un articolo pubblicato il 25 luglio, i professionisti sfornati ad esempio dai Politecnici di Milano o Torino accedono a stipendi all'estero che scavalcano la media italiana per più di 20.000 euro. Altro che generazione 1000 euro. Se si decide di volare a Parigi o Londra, senza differenze tra qualifiche e esperienze pregresse, il salario medio di un ingegnere è compreso tra i 33 e i 36 mila euro annui in Francia. Stiamo parlando di salario d'ingresso, l'età è la stessa, 26 anni, qualifiche identiche. Vola sopra i 40.000 in Inghilterra. Se poi gli anni di esperienza diventano tre o più, lo sbalzo è ancora maggiore, perché nel Regno Unito si arriva a 52.000 euro l'anno contro i 29.000 euro che offre il mercato italiano. Antonella, buongiorno, pronto? Buongiorno. Buongiorno, mi dica. Senta, io proprio questo argomento è che il problema è come dimostrato anche dalla signorina che ha messo in difficoltà il presidente Hollande, è la laurea che scegli, la laurea Sciences Po in Francia, come parecchie delle lauree italiane, è stata presa e è considerata per entrare nella pubblica amministrazione. Il problema è che se i problemi della disoccupazione giovanile, fin da quando ero ragazza io nel 77, quando il numero dei giovani disoccupati era quasi come quello di oggi, sono sempre stati risolti imboccando gente nel pubblico, quindi gli stipendi sono più bassi anche per quello. Lei all'estero è stata, Antonella? Io sono stata 25 anni all'estero, sì. E quale idea si è fatta delle differenze che rendono più competitivo un paese rispetto a un altro? Dov'era? Le tasse, signora, perché dov'era lei, Antonella, scusi? Io ho vissuto in Lussemburgo, sì, per 25 anni, dove gli stipendi sono molto più alti, i salari minimi sono molto più alti, sono rispettati, però le tasse sono molto più basse, quindi ci sono più soldi da lasciare alla gente, tutto lì. Quindi il problema è che noi abbiamo cercato, come se fossimo ancora nel 48, per forse 40 anni di risolvere tutti i problemi assumendo gente nel pubblico, e se non smettiamo di fare questo, chiaro, per i nostri giovani non ci sarà speranza. Non ci sarà speranza, grazie come Antonella. Per noi però, diteglielo ai ragazzi, perché non c'era nemmeno per noi, non è che noi eravamo in un mondo dorato, perché io me ne sono andata per quello. Grazie Antonella che ci ha chiamato da Latina, molto lucida questa analisi sintetica efficace. Matteo, pronto, buongiorno. Sì, salve, grazie per avermi chiamato. Io sono un medico, sono stato in vari paesi, 8 anni in Inghilterra, ho un'esperienza poi anche in America e in Germania. Volevo dire solo questo. È tornato? Lei? Poi sono tornato, ma non solo io, molti miei amici sono tornati, perché volevo dire proprio questo, che non è tutto oro quello che luccica. Perché se è vero che indubbiamente le condizioni per i giovani professionali sono al di sopra di ogni prospettiva rispetto all'Italia, perché sono, sì, molto più organizzati. Ci parli dei punti critici. I punti critici sono i punti, prima di tutto, che le famiglie inglesi, come le famiglie tedesche, le famiglie americane, mediamente alla fine non sono più ricche delle famiglie italiane. Adesso non mi chieda perché, è un discorso molto complesso, sì, storico. E poi c'è da dire questo, che se uno va all'estero intorno ai 30 anni, cioè con una formazione e una visione del mondo, tra virgolette, una cultura italiana, e va in un altro paese, sì, professionalmente avrà tutto lo spazio che vuole, ma sentirà di essere sempre un corpo estraneo nella cultura che è fatta di sedimentazioni di anni e anni di vita. Anzi, si sente ancora più italiano e si accorge di ciò che caratterizza la propria identità proprio perché ha lasciato l'Italia. Ci conferma il fatto che i salari sono maggiori altrove, però nonostante questo non compensa questo disagio che lei ha illustrato. Esempio, in Inghilterra, per esempio, è vero che i salari sono senza dubbio superiori e gli spazi professionali sono immensamente superiori a quelli italiani, però c'è anche da dire che il costo della vita, per esempio, in alcune aree di Londra, a Londra è alto. Annulla il beneficio, lei dice. Non c'è una differenza abissale, per esempio per Londra, non c'è una differenza abissale, diciamo. Senta, dottor Matteo, io non so nemmeno quale sia la sua specializzazione, brevemente, in 5 secondi, quindi a un suo collega neolaureato italiano, consiglierebbe o no di andare all'estero? Io consiglierei di andare a fare un'esperienza all'estero di 5-6 anni, acquisire il massimo che può e poi vedere se tornare e reinvestire in Italia. Oppure se la sente, perché poi è anche un fatto personale, di storie personali, se la sente fare poi il passaggio, però quello poi sta a lui. Grazie. Grazie a questo medico che ci ha chiamato e grazie naturalmente a tutti voi che avete partecipato a questa discussione anche via SMS. C'è chi ci segnala, per esempio, che essendo la tassazione anche diversa altrove, non bisognerebbe raccontare solo degli stipendi, ma anche di quanto rispetto a uno stipendio lordo poi percepisce effettivamente il lavoratore e quanto invece rimane allo Stato, diciamo così. Il problema del cuneo fiscale, chi ancora ci dice anche i giornalisti dovrebbero essere sostituiti da emigrati. Questo è un tema molto importante, perché quando si parla di competitività, quando si parla di modernità di uno Stato, chi lo racconta questo Stato, se ha non solo un colore della pelle, che è quasi banale la minoranza etnica visibile, ma una cultura, è portatore di un'ottica diversa e naturalmente avrà un modo di percepire e raccontare i problemi anche molto più diversificato, molto più variegato, e per questo si inseguono quelle strade e quelle vie anche all'estero, per cui i giornalisti stranieri sono ricercatissimi, ovviamente se hanno padronanza della lingua del posto. Grazie per tutti questi vostri stimoli. Ci siamo chiesti dunque dove sta la verità rispetto all'imprenditore che ha detto gli italiani, i lavoratori italiani non hanno fame e hanno tanta voglia di andarsene all'estero, per questo io non riesco che a assumere stranieri. Imprenditore trevigiano che nel frattempo è stato sommerso da una pioggia di telefonate, email e curriculum di persone che si propongono. Possiamo continuare questa discussione anche sul sito della trasmissione, mandando un'email a spuntidivista@radio24.it oppure su Facebook. Tra poco, infatti, andremo ad affrontare un altro tema. Grazie a Massimo D'Archini e a Stefano Butti per essere rimasti con noi. German Chancellor Angela Merkel making history by teaching it, holding a class at a Berlin high school to share her experiences about growing up in communist East Germany. E questa è la CNN che ci racconta di Angela Merkel che va a scuola, racconta ai ragazzi come è stato crescere nella DDR, come è stato crescere nella Germania prima che il muro di Berlino cadesse. E dall'altra parte del muro, naturalmente, perché come noto la cancelliera tedesco è cresciuta nella Germania democratica, un tentativo preelettorale è stato detto per accattivarsi almeno l'elettorato giovanile. Ma non è l'unica che cerca in qualche modo, andando nelle scuole, nei posti della vita, di avvicinarsi alla gente. It's nothing quite as flashy as Norway's prime minister, who moonlighted as a taxi driver in June, to sound out voters' views on campaign issues, a pre-election stunt and campaign video which went viral. E qui ci siamo spostati invece ad Oslo, perché il premier norvegese Stoltenberg in incognito ha fatto il tassista proprio così per un intero pomeriggio. A giugno si è messo l'uniforme d'ordinanza, una bella cravatta rossa, e ha cercato, andando sul taxi, di raccogliere le opinioni di quelle che una volta si chiamavano gli uomini della strada. Il taxi, questo è uno dei posti in cui la gente, chissà perché, dice davvero quello che si pensa. Ci sono il barbiere, c'è il taxi. Le conversazioni tra il premier, tra l'altro non tutti l'hanno riconosciuto, sono state filmate e registrate. Lui ha pubblicato un riassunto sulla pagina Facebook proprio per utilizzarlo nella sua campagna elettorale. E in Italia? In Italia cosa abbiamo visto? In Italia siamo partiti da "Dio vi vede, Stalin no", uno storico slogan della Democrazia Cristiana, apparso per la prima volta, alcuni lo ricorderanno, nella campagna del 1948, per arrivare oggi invece agli aeroplanini che sono stati avvistati. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. E tu sei uno di quelli che ha avvistato questi aeroplanini con lo striscione Forza Italia, Forza Silvio. Forza Italia, Forza Silvio, sì, ebbene sì, sono uno dei fortunati avvistatori. Maurizio Pesce, innanzitutto presentiamolo, giornalista di Wired, ha pensato bene e di scattare una foto e di pubblicarla immediatamente. Maurizio, sei con noi? Sono qui, sono qui. Quindi, dici un po', tu eri lì tra gli ombrelloni, dove ti trovavi? Ero provincia di Caserta, Mondragone, quindi parliamo di l'inizio di Sud Italia, di quella parte lì, siamo al confine fra la Campania e il Lazio. Ed eri sulla spiaggia? Ero sulla spiaggia, ho alzato lo sguardo quasi per caso, perché va detta subito una cosa, le spiagge, soprattutto quelle dove vado da anni, quindi nel sud, usano spessissimo gli aerei per far pubblicità durante l'estate, quindi alzare lo sguardo non è più una reazione automatica quando si sente il rumore di un motore, di questi piccoli aerei, di questi biplani, perché ce ne sono veramente tanti. Cioè passa inosservato quasi, tu dici? Abbastanza, abbastanza, tant'è vero che Forza Italia, Forza Silvio è passato più nell'indifferenza che altro, perché erano appena passati un altro paio di aerei, uno che pubblicizzava anteprime di cinema e uno a un centro commerciale. Dunque, è stata questa una sorta di offensiva ferragostana a 9:30 del mattino del 15 agosto, 9 aerei con gli striscioni, Forza Italia, Forza Silvio, lunghi 25 metri per uno di altezza, si sarebbero levati in volo e l'obiettivo era sorvolare le coste italiane. Ora, c'è chi racconta che in diverse spiagge c'è stata un'accoglienza con applauso. C'è chi dice che in altre spiagge invece c'è stata una sorta di insofferenza. Dove ti trovavi tu, Maurizio, hai registrato soprattutto indifferenza? Soprattutto indifferenza, esatto, perché, ripeto, è un'iniziativa che commercialmente viene usata molto. I pochi commenti che ho sentito erano qualche battuta, un po' di ilarità, ma soprattutto mi ha colpito l'analisi del giorno dopo, quando chi l'aveva visto lo stava commentando, poi leggendo anche quello che leggeva sui giornali, ed era soprattutto insofferenza di fronte a una spesa esorbitante di denaro, per quanto privato, per aerei, noleggio, carburante, personale, in un momento in cui probabilmente la gente non si sente di passare. Sì, ma al di là dell'aspetto morale, funziona? Cioè, un aeroplano con lo striscione Forza Italia, Forza Silvio, oggi, nell'era, come sappiamo, del web, dei blog, dei Twitter, che tipo di pervasività può avere? C'è qualcuno, non so, tra gli ascoltatori che vedendo questo striscione ha cambiato idea, ha deciso di votare da una parte o dall'altra? Pronto, buongiorno. Pronto, Maria? Buongiorno Maria, 800-24, ne approfitto per dare ancora una volta il numero di telefono, 00-24. Lei da dove chiama? Dalla provincia di Viterbo. Allora, il giorno di Ferragosto stavo sulla spiaggia di Ladispoli, una spiaggia libera super affollata, perché spiaggia libera ce n'è poca, e vedendo questo striscione, io ho avuto un moto di quasi di rabbia, non mi intendo di politica, però io, con tutti i problemi che ci sono, la disoccupazione giovanile, le tasse che ci salassano. E vedendo questo spreco, forza Silvio, ma dico forza di che? Se ha sbagliato deve pagare. E tutti quanti cittadini, se sbagliamo paghiamo. E che reazione ha visto tra gli altri che erano sulla spiaggia? Ci sono stati commenti, indifferenza, insofferenza, applausi? Un brusio quasi di rabbia. Quasi di rabbia in una spiaggia popolare, con tutti i ceti sociali, con tutti i problemi che ci sono. Io poi ascolto, io sono una picciona, i vicini, chi ha perso il lavoro, chi ha il figlio perché che è ancora laureato, ancora disoccupato, tutti questi problemi, vedendo Silvio, super miliardario, che ha condotto una vita, secondo me, scellerata, adesso mi viene questo termine, ma non so se sia adatto, è stato uno schiaffo ai problemi della gente. Uno schiaffo ai problemi. Grazie Maria, che ha avvistato l'aeroplanino sulla spiaggia di Ladispoli. E dunque, dal punto di vista comunicativo, che questi aeroplanini di Silvio diventino poi in realtà un boomerang, lo chiediamo al professor Francesco Pira. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, professore. Buongiorno. Ecco, lei è specializzato in campagne elettorali, in comunicazione, è un sociologo della comunicazione all'Università degli Studi di Messina ed è autore di diversi libri sulla comunicazione politica, dal Volantino Blog alla radio Second Life. E ha sentito, queste sono alcune delle reazioni che abbiamo raccolto a caldo a questa iniziativa dell'aeroplanino. Siamo sicuri che sposta voti oggi come oggi? Ma probabilmente non sposterà voti, e poi in questo momento non si vota. Diciamo che noi in Italia siamo in questo sistema di permanent campaign, siamo sempre in campagna elettorale, per cui probabilmente Berlusconi ha fatto questo con il solito sistema utilizzato per consolidare il suo elettorato, che comunque è un elettorato molto forte. Ha perso un po' di elettori, parzialmente li ha recuperati, lui ha bisogno di tenere duro rispetto a quelli che sono gli elettori che lo hanno votato nei momenti migliori. Secondo me in qualche modo ha funzionato, anche il fatto stesso che la signora che ha parlato prima si è indignata significa che ne ha parlato, che comunque Berlusconi rimane al centro dell'attenzione e divide l'Italia tra chi vuole Berlusconi fuori dai giochi politici e chi invece ancora lo vuole protagonista. Quindi dal punto di vista comunicativo ha funzionato, perché se ne parla. Quindi ha funzionato, cioè l'obiettivo era parlarne, tenere Berlusconi al centro. C'è tutta un'altra comunicazione parallela, sono velocissimo, che si sviluppa sui social network e che ha avuto commenti diversi che abbiamo registrato. E ci segnalano i nostri ascoltatori al 349-238-6666 di aver visto l'aereo Forza Italia, Forza Silvio a Rimini, e non c'erano commenti né negativi né positivi secondo Morena, cioè è stato così registrato come un colpo di vento quasi questo aeroplanino di Silvio. Secondo Filippo Ceccarelli, che è opinionista di Repubblica ma soprattutto un grande scrittore di quelle che sono le stravaganze nelle campagne elettorali, per anni le ha registrate, sottolineate, rimbalzate con la sua abilità, questi aeroplanini avevano uno scopo preciso, cioè il mezzo è il messaggio, e sulla coda di questi bimotori commerciali, in vero al momento questo messaggio sembra messo piuttosto maluccio, scriveva su Repubblica, svolazza insieme incombe sull'orizzonte degli strumenti, degli stabilimenti balneari. Dunque, Filippo Ceccarelli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Ci stavamo chiedendo, funziona? Ha funzionato, visto che abbiamo sentito reazioni o di insofferenza o di indifferenza nell'era ipertecnologica che viviamo, in campagna elettorale, lo striscione lungo sulla spiaggia fa quasi tenerezza a vederlo come mezzo tecnologico. È un po' anni 60, però insomma tutto fa brodo per una politica allo sfinimento, nel senso che io vedo che proprio la vera partita non è tanto tra di loro, cioè tra i politici, ma è tra la politica, la sfera della politica e tutto il resto, il mondo dei consumi, la partita di calcio, il farmaco particolare, lo schermo di un certo tipo. Allora si è creata una situazione in Italia per cui alla fine la conquista dell'interesse, sia pure momentaneo, da parte dei protagonisti, diventa la ragione di mettere in onda, di mettere in scena, di inventarsi qualsiasi bizzarria, purché per un po' il pubblico, non voglio più neanche dire i cittadini, insomma i consumatori, ecco, di spettacoli, debbano in qualche maniera avere la possibilità di concentrarsi, sia pure per un po', sulle vicende di una politica che ha perso fibra, appeal. Insomma, ha perso la sua anche ragione di esistere, che sarebbe, poi noi lo dimentichiamo, in un tempo in cui le forme poi hanno quasi preso il sopravvento sui contenuti, insomma il senso ultimo poi originario della politica sarebbe quello anche un po' di risolvere i problemi dei cittadini, invece questi sono diventati degli abilissimi organizzatori di spettacoli politici, poi dopodiché passa l'aeroplanino, guarda l'aeroplanino, però poi non è che le cose si vanno in un senso più positivo di quanto siano al momento. Ma è completamente nuovo questo mezzo, l'aeroplanino, nella campagna elettorale nazionale, o ci sono dei precedenti? No, esiste come al solito, tutto è già successo, questo un po' è nella logica un po' del tempo e anche, se vogliamo, della vita, insomma, no? Io ho fatto delle ricerche a proposito e, cioè, con la premessa che naturalmente le macchine in movimento costituiscono da sempre una risorsa evidente del teatro, a cui diciamo la politica, il potere si ispirano, eccetera, per cui dai cocchi dorati degli eroi greci fino appunto alle macchine di scena del teatro di Ronconi, dalle liturgie sacramentali fino a, appunto, al movimento, allo spettacolo della cosa che si cambia, senza andare troppo indietro, evidentemente tra camion, pullman, camper, la nave di Berlusconi, eccetera, la politica. Il treno anche è stato usato. Il treno di. Qui a dire che un politico è come Agamennone, non è, cioè, mi sembra ce ne passi. No, certo, loro diciamo sono l'immagine guasta e corrotta, ma non di Agamennone, no, Dio. Cioè, voglio dire, l'uomo politico punta a essere una specie di divinità, e quindi naturalmente si tratta di un'immagine deteriorizzata, né? Nel senso che loro puntano a fare a sembrare superiori agli altri uomini, no? Quindi altro che Agamennone, vanno anche sopra. Dico. Ecco, l'aereo diventa l'ultima risorsa. No, nel caso specifico io ho scoperto che il primo aeroplanino venne fatto nel 2002 girare sopra la casa di Cesare Previti durante una manifestazione contro di lui, con la scritta "La giustizia è uguale per tutti". Quindi nasce, se vogliamo, a sinistra. Nasce a sinistra nel 2002 e poi sì. C'era una frase compiuta, la legge uguale per tutti, e ci si riferiva naturalmente a una vicenda molto specifica, mentre qui abbiamo uno striscione che rivendica semplicemente la presenza. Grazie Silvio, come avete detto all'inizio di trasmissione, basta che se ne parli. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Berlusconi, ancora buongiorno da Irene Zerbini, siamo tornati dopo questa pausa, non ha nulla da imparare sulla comunicazione, ci scrivono gli ascoltatori. E appunto è questa nota quasi un po' fuori dalle solite voci, dai soliti strumenti utilizzati da Berlusconi che ha attirato l'attenzione in questi giorni. Questo aeroplano con lo striscione così lontano sembra, per alcuni così ridondante, così inutile per uno che può controllare dei canali televisivi. Luca, buongiorno. Buongiorno Irene, salve. Pronto, buongiorno, da dove chiama lei? Io chiamo dalla provincia di Firenze. È un avvistatore o è semplicemente un commentatore a latere, diciamo così? No, no, sono diciamo un commentatore. Sì, no, dica non ho allora. Ho avuto questo onore di vedere lo striscione. Ci saranno altre occasioni, immagino. No, semplicemente il mio pensiero era questo, e il fatto che sui giornali se ne parli, il fatto che noi ne discutiamo nei bar, ne discutiamo nelle nostre sedi lavorative, il fatto che anche una trasmissione ne parli, penso determini già il successo di questo evento. Te lei ha già colto nel segno, non potrebbe rivelarsi negativo invece questo parlarne dal punto di vista della resa elettorale? Abbiamo visto proprio questo, che la mancanza di contenuti nelle campagne elettorali determini il fatto che il parlare di un candidato rappresenti la pubblicità di quel candidato stesso. E nonostante io non condivida assolutamente le idee che esprime Berlusconi, però penso che per l'ennesima volta dal punto di vista della comunicazione ha colto nel segno. E la cosa drammatica è ancora che ha colto nel segno facendo un qualcosa che non porta niente al paese in termini tangibili, ma porta sicuramente un momento di difficoltà di Silvio rappresentato dai processi, dalle accuse, dalle certificazioni delle accuse, esatto, invece di parlare dei suoi aerei. E non parliamo del fatto che è un giudicato ed è stato giudicato in un certo modo. Quindi secondo lei è campagna positiva, nel senso di, diciamo così, mezzo e fine, nel senso che questo parlarne già aiuta, basta che se ne parli, basta che si faccia lo spelling del mio nome in maniera corretta, si dice in inglese, ma sarà così e basta semplicemente la forma o serve un contenuto? Damiano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Lei è un avvistatore? No, io non sono un avvistatore, ho il punto di vista del contribuente, possiamo dire. Sì. Allora, diciamo che a prescindere dal fatto che sì, può dar fastidio, rabbia in tempo di crisi vedere diciamo uno sperpero di denaro per questo tipo di campagne pubblicitarie con aerei e striscioni, ma io penso che il contribuente dovrebbe arrabbiarsi più che altro nel vedere lo spreco di denaro pubblico in vicende giudiziarie, in persecuzioni giudiziarie che stanno avvenendo un po' in diverse procure d'Italia a carico di Silvio Berlusconi, perché quello è tutto denaro che proviene dalle nostre tasche, tutte quelle indagini, tutta quella guerra. Cioè era meglio risparmiarlo, secondo lei? Che era meglio risparmiarlo, indubbiamente, con tutti gli altri problemi che infatti, abbiamo. Infatti quello che succede all'estero è che quando uno viene semplicemente tacciato, no, ed è in ambito politico, così c'è un'ombra di un'accusa, si ritira, così da non mettere in imbarazzo il proprio partito, i propri, e non far spendere appunto il denaro pubblico in inchieste, indagini. Ci sono varie vie per risparmiare il denaro. Professor Francesco Pira, ora lei ha analizzato anche la campagna elettorale di statisti stranieri e sembrava che lontano dalla tecnologia, oggi come oggi, dal punto di vista della resa poi in termini di voti, nulla funzionasse. È proprio così? Ma diciamo che quello che funziona sia in Italia che all'estero è una strategia molto complessa che vede l'utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione tradizionali e innovativi. Proprio per rifarmi a uno degli interventi dei radioascoltatori, devo dire che un recente studio che è stato fatto in America proprio da un'equipe di sociologi ha dimostrato che, per esempio, se un candidato in campagna elettorale fa il pieno di cinguetti e quindi si comporta, ha una presenza molto forte su Twitter, indipendentemente dal contenuto del post, ha più speranze di vittoria alle urne. E stavo pensando che mentre noi parliamo di aeroplanini, Obama è sempre più social e proprio nei giorni scorsi, dopo Facebook e Twitter, ha deciso di utilizzare Kindle e addirittura ha pensato di raccontare storie che gli accadono attraverso degli ebook e quindi utilizzare, diciamo, l'esperienza dello storytelling per alimentare il suo rapporto con gli elettori. Quindi, secondo me, il problema è legato alla strategia. Gli analisti che seguono Berlusconi Meloni avevano consigliato di utilizzare gli aeroplanini, perché probabilmente in questo momento funzionano gli aeroplanini, ma sono certo che se gli analisti gli diranno che è necessario fare degli ebook come Obama e entrare in quel tipo di mercato, lui lo farà agevolmente, così come possiamo anche dire che per esempio il portale del PDL è un portale che dal punto di vista del collegamento con i social network è molto attivo, quindi abbiamo già in Italia degli esempi di comunicazione integrata abbastanza forti. Certo, diceva giustamente Ceccarelli prima bene, i contenuti quali sono? Lui ha parlato di politica allo sfinimento, questo è il tema. Cioè, ma i contenuti proprio non contano? Cioè bisogna anche avere... Obama è solo questo, è solo Facebook, no, Twitter, Obama, io l'ho scritto nel 2009. Le primarie, o è anche un buon candidato? Cioè chiunque al suo posto avrebbe ottenuto gli stessi risultati Obama, con la stessa Obama campagna. Obama ha messo insieme tre elementi fortissimi, che sono valori, quindi incarnando i valori americani e in particolare l'orgoglio e la speranza, ha messo insieme i contenuti, ha detto faccio la riforma sulla sanità e poi l'ha fatta, ha incarnato strategia, quindi sono questi tre elementi forti, la comunicazione politica si regge se questi tre elementi sono presenti, diversamente no. Non è solo storytelling dunque, Ceccarelli? Guardando indietro alle campagne elettorali anche della Prima Repubblica, quali sono state le strategie di comunicazione più efficaci nella storia d'Italia? Il sospetto che ho io sempre più si allontana questo periodo, che siamo alla terza, quindi la Prima Repubblica comincia a essere materiale archeologico, però a volte proprio la distanza te la fa vedere con maggiore nettezza. L'impressione che ho io, la sensazione, il dubbio, il sospetto è che allora venisse tutto un po' da solo, nel senso che quando esisteva la rappresentanza, i partiti e quindi i loro vertici, penso a figure appunto come Moro, Berlinguer, i Dorotei nella DC, gli stessi socialisti, si sentivano in qualche maniera responsabili della... C'era come un flusso, c'era come un'energia collettiva che gli faceva dire, pensare, inventare forme di comunicazione che erano quelle del loro popolo, ecco, gli veniva da solo, quindi la cosa era molto più semplice, come un fiume che guida, che va direttamente verso il mare, non... E non come oggi che uno immagina che ci sia dietro il lavoro, qui abbiamo detto gli analisti, ma l'impressione che ho io è che siamo ormai arrivati ben oltre i pubblicitari e quindi agli psichiatri quasi, quindi a degli esperti di cose cognitive, per cui e allora lì si inventavano delle cose che erano naturali, per cui alla fine gli uomini politici rispondevano al loro popolo con il loro linguaggio, eccetera. Sì, oggi è vero, si Filippo. Svegliano la mattina e non sanno che cosa inventarsi. Qualche cosa di nuovo di questo tempo probabilmente viene fuori dalla comunicazione di Grillo. Ecco, lì c'è un sistema, come diceva Pires, integrato in qualche maniera, dove il web gioca un ruolo molto forte, però per esempio Grillo non va in televisione perché c'ha un'altra strategia, però ecco il paragone con la Repubblica dei Partiti è un paragone ormai... Ecco, Grillo non va in televisione e incassa un bottino elettorale eccezionale alle ultime politiche, sto parlando, e dall'altra parte gli analisti dicono il successo di Berlusconi è dovuto dal 94 in poi esclusivamente al controllo delle televisioni, ma ci ricordiamo che anche allora uno dei partiti alleati come la Lega ebbe pochissimi passaggi televisivi e incassò moltissimo, per cui sembra che ci sia sempre qualche elemento di sorpresa su quello che davvero funziona nelle campagne elettorali. Tu adesso ci dici, ma veniva da sé, c'era talmente un contenuto, diciamo così, all'interno delle formazioni ideologiche che caratterizzavano l'Italia Prima Repubblica che non c'era bisogno dello psichiatra o del consulente. Però Filippo, ci ricordiamo per esempio del contributo di Guareschi alla Democrazia Cristiana, ci ricordiamo la sua critica ai comunisti che venivano sbeffeggiati come trinariciuti, cioè avevano tre narici, per, un po' per far uscire il cervello e poi per far entrare le direttive del partito dalla terza narice. Prendevano direttamente dall'alto tutte le direttive, cioè anche i partiti pre-Berlusconi si sono serviti di disegnatori, si sono serviti di testimonial, di persone che hanno pensato delle campagne specifiche. Non è che sia un fenomeno completamente nuovo quello di rivolgersi al consulente oggi. Beh, insomma, l'impressione che diciamo, al di là di alcune cose che sono rimaste poi nell'immaginazione, nella storia anche della comunicazione politica, è che l'impressione mia è che poi nei piccoli paesini italiani, da Aosta fino a Ragusa, c'era la sezione del Partito Comunista, la sezione della Democrazia Cristiana, la sezione del Partito Socialista e di altri eventualmente, e lì dentro il pomeriggio si raccoglieva un certo numero di persone che oggi non stanno lì, vanno da altre parti, e producevano dei manifesti e sopra ci scrivevano delle parole che gli venivano da sole, insomma. Metti quindi una croce dove ce n'è già una, per esempio. Insomma, poi naturalmente la comunicazione vive di sorprese, per cui certo anche gli intellettuali erano chiamati a partecipare a questo grande gioco che erano le campagne elettorali, ma erano campagne elettorali dove già esistevano i consulenti, venivano dall'America. Noi abbiamo una tradizione di consulenti americani un po' diciamo che hanno fatto poi dei flop pazzeschi già negli anni 60. Io però ecco vorrei anche, è uscito recentemente sulla base delle cose che devono pubblicare, delle spese fatte eccetera, che la lista di Monti, che pure aveva un patrimonio, aveva acquisito Monti come personaggio un patrimonio anche di autorevolezza abbastanza forte, ha dato 350.000 euro a un signore che veniva dall'America, e con i risultati che abbiamo visto, nel senso che è stato però sono tanti 350.000. Sì, sì, un investimento insomma sbagliato visto i risultati, oppure sarebbe andata anche peggio, chi lo sa. Filippo, rimani con noi, sentiamo anche gli ascoltatori. Pronto, buongiorno a Romano. Ah, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Io volevo dire questo, che la strategia di Berlusconi, a mio avviso, è stata positiva per gli aerei. Perché? Perché parlare degli aerei e non parlare di una pesante condanna per frode fiscale, beh, diciamo, è comunque un miglioramento dell'ambiente, dell'ambiente politico, voglio dire, no? Quindi io ho notato c'è una distrazione, lei dice, dall'oggetto, anche se in realtà della condanna per frode fiscale si parla. Esattamente. Allora, io ho visto in particolare ultimamente una registrazione su YouTube in cui lui è entrato in contraddittorio al Consiglio europeo con il presidente Schulz, mi pare, il quale gli ha dato delle indicazioni sulle cose da fare e ha chiesto a lui che cosa l'Italia avrebbe fatto quando lui era presidente del Consiglio. E lui ha risposto dicendo che il suo discorso mancava di ironia. Ah, così gli ha risposto. E certo, e quindi in questo modo cosa fa? Invece di parlare delle cose gravi che ha distratto un'altra volta. Quindi lei dice il meccanismo della distrazione funziona. Grazie. Lo stesso. Grazie a Romano. Giuseppe, pronto? Pronto, buongiorno, auguri. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Ancora buongiorno, con noi Filippo Ceccarelli, Maurizio Pesce, il professor Francesco Pira, io sono Irene Zerbini e stiamo sentendo un po' gli umori per questo passaggio sulle coste italiane di questi aeroplanini con striscione. È stato un successo secondo alcuni, è stata una cialtroneria secondo altri, ha fatto un pochino pena, ci ha segnalato qualche ascoltatore all'SMS 349 2386 333-477-2666 se anche voi volete utilizzare questo mezzo per contribuire alla trasmissione. Giuseppe, l'abbiamo lasciata un attimo in sospeso, buongiorno, ben ritrovato a questo punto. Buongiorno, da dove... a voi. Io, la mia pazienza dura oramai da più di 30 anni riguardo a Berlusconi, quindi la speranza è che lui vada via. Io volevo rifarmi un pochino al famoso Il Fatto di Enzo Biagi, sì, quando ha fatto delle domande a Indro Montanelli, sì, dicendogli dove ha sbagliato Berlusconi a nascere. Dove Berlusconi, un altro passaggio, dove Berlusconi è un animale che deve governare perché si rovina da solo. Ora, le conclusioni a distanza di anni sono proprio queste qua. È inutile andare a dire ancora, se fosse in uno stato qualsiasi, anche africano, nessuno poteva e nessuno deve dire vogliono la rivoluzione, la santa anche, ma che facciano la rivoluzione? Non sono capace, sono capace di dire bla bla bla, Silvio, ha rovinato l'Italia, il mondo, non ci conosce più nessuno, siamo all'apice di tutto e ancora commentiamo, che cosa c'è da commentare? Deve andare via e basta. Grazie dunque a Giuseppe da Reggio Calabria, come avete sentito non vale nemmeno la pena di entrare nella questione, aeroplanini sì, aeroplanini no, avete visto questi striscioni, ma soprattutto sono il segno di la fine di un'era, come sottolinea qualcuno, perché sembrano così una formula comunicativa che nemmeno sortisce molto effetto se non insofferenza e indifferenza, o invece il segnale forte di un leader che è tutt'altro che vicino al declino, come segnala invece un altro pezzo della nostra platea. Sergio, buongiorno. Pronto? Oh, buongiorno, telefono, in questo momento sono vicino a Grosseto. Avvistatore. Senti, quindi lei, un avvistatore, sì, sì, l'ha visto? Sì, non ci potevo credere, perché ero sul lettino sdraiato, sento questo planino che passa sopra di me e mi è venuto l'istinto di aprire gli occhi. E io sinceramente non ci credevo a una cosa del genere. Poi ho visto Veneto, non è possibile. E la prima impressione, è stato che sicuramente è un uomo disperato. Lui, conoscendo tutti i mezzi di comunicazione di cui dispone, lui le sta provando veramente di tutte per portare avanti... Cioè lei era incredulo del mezzo, dice, ma non è possibile. Perché lei l'aveva mai visto un aeroplanino passare sulla spiaggia, magari con scritto Alessio ti amo, sposami? Ma raramente, più che altro pubblicità, però questa campagna così efficace, perché lui veramente è un animale da mezzi di comunicazione, e lui si sta arrampicando sugli specchi evidentemente, perché sta provando di tutte. Non è molto sofisticata allora secondo lei questa campagna dell'aeroplanino? No, è stata secondo me molto efficace, se ne parla tantissimo, io sul mio profilo Facebook l'ho messo e vabbè, ho messo dal mio giudizio personale, però sinceramente ha colpito nel segno e lui lo sa bene questo. A lei questo l'ha messo perfino sul suo profilo Facebook? Ah, sicuro, sì, guarda, mi ha sconvolto veramente, perché sì, perché non me l'aspettavo una cosa del genere. Cioè, è efficace, l'uomo è efficace e sta provando di tutto. Grazie all'avvistatore Sergio che ci ha chiamato dalla provincia di Grosseto. E dunque, Francesco Pira, altro che vecchi e nuovi modelli, c'è un'interazione, professore, sembra di vecchio e nuovo, di rete, di algoritmi, di profilo Facebook che rilancia qualcosa che inizialmente può sembrare grottesco. Quindi ci sono tutti questi canali della comunicazione che si fondono e che si utilizzano a riprese diverse in una campagna elettorale permanente, come ha detto lei, Francesco. Sì, ha colpito nel segno, il tema è questo, cioè ormai la comunicazione è integrata e soprattutto c'è questo effetto che un grande sociologo che si chiama Castells, che io ho citato nel mio libro appunto sui social network e la comunicazione politica, che ha autocomunicazione di massa, cioè ognuno di noi può riproporre, condividere e far conoscere ad altri quello che accade. La testimonianza del radioascoltatore di Grosseto è sicuramente il segno di quello che sta accadendo, però io vorrei dire tre cose brevissime. La prima, che quando avete prima parlato di Biagi, ho pensato a una cosa che ho scritto di recente proprio parlando di Enrico Berlinguer, comunicatore. Quando Biagi l'ha intervistato nel suo libro I come italiani, ha scritto una cosa e richiamo a quello che diceva prima Ceccarelli, è fortissimo, ha detto alla fine di questa intervista, Berlinguer mi dà la sensazione che è un politico che dice sempre la verità. Ecco, questa è la sensazione che noi non abbiamo più, perché c'è un'assenza di rappresentanza democratica, cioè non ci riconosciamo più. Tempo fa mi ha chiamato un giornalista canadese e mi ha chiesto come mai il nostro capo dell'opposizione è un comico dopo 20 anni di berlusconismo. L'altra cosa è che nei contenuti, sia sulla rete che invece quelli espressi sui media tradizionali, manca un aspetto importantissimo che c'era nella politica, ed è quello che segnalava prima Ceccarelli, cioè l'elemento retorica. Molto spesso i contenuti non erano fortissimi, ma la retorica era molto forte e quindi si riusciva a comunicare bene. Il discorso Grillo è stato esaminato anche in tantissima letteratura scritta negli ultimi mesi. Grillo è un personaggio televisivo conosciutissimo ed ha sfruttato la sua immagine. Ha dietro Casaleggio, che è un grande esperto di marketing virale sulla rete, e soprattutto ha un popolo attraverso i Meetup che per tanti anni lo ha seguito e che quindi poi è esploso. Però attenzione. E quindi quanto c'è anche di contenuto in questo? Perché sembra che basti costruire una rete o semplicemente un effetto virale per poi sfondare o raggiungere dei risultati elettorali invidiabili. Quando io dicevo il fatto che cavalcare la protesta è un elemento, governare e poi spiegare come si governa è un'altra cosa, quindi bisogna vedere le fasi diverse della comunicazione. Quello indubbiamente, ma ci chiedevamo cosa funziona oggi, perché quando si è visto questa battaglia sulle spiagge, veramente si è precipitati agli anni 60 e 50 con questi aeroplanini con striscione, almeno questa è stata la mia impressione. Dall'altra parte il PD, Enrico Rossi, governatore della Toscana, che rispondeva con una controffensiva non virale, ma col volantino sulle spiagge. E ci si è chiesti, ma perché? C'è una ragione dietro tutto questo, quando sembra che ormai i voti li raccogli solo attraverso dei laboratori sofisticatissimi e tecnologici che possano quasi sondare, capire quelli che sono i desideri di ogni singolo potenziale utente grazie agli algoritmi che si usano sulla rete. Eppure, se c'è molto da imparare dagli americani, ci sono anche questo tipo di comportamenti che sembra ancora facciano breccia qua in Italia, cioè ancora siamo un pochino su un crinale noi italiani. Da una parte guardiamo al futuro, ma non abbiamo abbandonato quei momenti da campagna elettorale coi cartelloni, i trinariciuti sono ancora molto presenti nell'immaginario collettivo, queste distinzioni che mettono ideologia, tra l'altro, dove spesso ideologia non c'è o contenuto non c'è. Filippo Ceccarelli, le campagne elettorali, tu prima ci hai citato un flop, il consulente americano Di Monti non ha esattamente colto nel segno. E tu naturalmente sei una memoria storica e ti ricordi anche tanti altri leader di partito e di coalizione che erano, sembrava all'inizio della campagna elettorale, avrebbero fatto il pieno e poi invece a sorpresa hanno avuto dei risultati deludenti. Quali per esempio? Beh, Craxi è, diciamo, stava sempre ad aspettare una cosa che lui chiamava l'onda lunga, che non arrivò mai poi in definitiva. Craxi era uno che mobilitava, che creava molta controversia molto attorno a sé, al partito, a questo ruolo che lui aveva di combattere in qualche maniera, anche di paralizzare le due grandi chiese, quella comunista, quella della Democrazia Cristiana, e quindi sfondare il bipolarismo all'italiana. Poi però non c'è mai riuscito. Questo è un esempio. Il maestro di Craxi, che era Pietro Nenni, diceva a questo proposito, ma vedi, ecco, qui già si capisce come la dimensione fosse già pre-tecnologica, perché era il tempo dei comizi, usava una formula piuttosto efficace. Nenni era un grande giornalista, diceva piazze piene, urne vuote. ossia quando c'era la campagna elettorale si riempivano le piazze, probabilmente anche di curiosi, perché poi è nel temperamento italiano quello di volersi divertire, no? Per cui sì, l'ascoltatore mette l'aeroplano di Berlusconi nel suo profilo Facebook, cioè io non divertire, ho capito se divider. Lui era contento, no non divertire, era contento, divertire. Però l'ha messo, no, non però era, l'ha messo, non era proprio Berlusconi, però l'ha messo. Gli italiani si vogliono divertire, vogliono sì, vedere, e Berlusconi da questo punto di vista è stato straordinario, si è fornito delle meraviglie. Beh, insomma, basta materiale, pensare a tutto quello che ha prodotto in termini, non voglio dire di narrazioni orgiastiche per arrivare su un terreno proprio estremo, ma insomma anche a livello familiare, con tutte le storie dei parenti, le cose, mamma rosa, eccetera. Quindi è la trasformazione di una cittadinanza, dei cittadini, degli elettori in consumatori di spettacoli, in pubblico, tant'è che addirittura oggi parlano della cabina di regia, no? Un tempo, ai tempi del primo centrosinistra, si diceva entriamo nella stanza dei bottoni, no? Era questa immagine del potere, eccetera. Oggi dicono facciamo una cabina di regia, come se fosse il film o qualcosa del genere. Quindi c'è questo elemento di spettacolarizzazione che sicuramente soprattutto della campagna elettorale, perché la grande la campagna elettorale dura sempre, mica si vota adesso, cioè voglio dire, una cosa è sicura nel quadro politico italiano: non si vota. Napolitano non scioglie il Parlamento, quindi non si vota, e però noi continuiamo a parlare di campagna elettorale nonostante questo titolo. E dopo la campagna elettorale i contenuti, le promesse, ci segnalava il professor Pira, ha parlato di sanità, ha parlato di ritiro delle truppe Barack Obama, e poi l'ha fatto. Invece c'è questo scollamento grandissimo tra ciò di cui si parla prima e l'abbandono dell'elettore appena dopo, appena a Roma si arriva. E anomalia del candidato Berlusconi ce l'avete segnalato un po' tutti, e tu Filippo Ceccarelli ci hai segnalato un'altra grande anomalia italiana, forse è il caso di rifletterci, cioè non solo del candidato ma proprio dell'elettorato, l'elettorato che si vuole divertire più che riflettere. Ci fermiamo per oggi, ritorneremo con spunti di vista domani mattina alle 8:15 da Irene Zerbini. L'augurio di una radiosa giornata.